sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Perché Sanremo è Sanremo. Ecco Variale, arrivedo. La salutiamo. Siamo tanto male. Ma vattene. Se sapessi quanta gente che c'è sta. Bravo. Ferrara. E poi dice, ve voglio, manna a tutti. A Frascati, capito? Sì. Diamo un titolo a una canzone, andiamo a 100 all'ora per cantare la serenata. E la se la ricorda, yeah yeah yeah yeah, gol gol gol. Andiamo a 100 all'ora per cantare la bimba mia, arriva Eto e vi fa tanti gol. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Buonamici in redazione, e questo è quello che vi aspetta nelle serate di Sanremo, perché noi stiamo aspettando solo quello. No. Marta Cagnola, nostra inviata alla kermesse della canzone italiana. Ciao Marta. Ciao, ero qua che mi scaldavo a bordo campo. Stavo aspettando il massaggiatore, ma non è ancora arrivato. Sì, grazie, perché quando arriva a Sanremo io voglio essere convocata da voi. Stavo ascoltando questo Viperetta che canta. È inspiegabile che non sia in gara a questo punto, però. Sì, no, infatti io sono molto arrabbiato per il fatto che non parteciperà direttamente al concorso. Ma quando viene? Giovedì. Viene giovedì. In realtà sapevamo che sarebbe arrivato Antonio Conte. Venerdì, però, giusto? Guarda, allora, la verità è che ci stanno centellinando gli ospiti, cioè vogliono confermarli solo sera per sera, o meglio sera e la sera dopo. Però la sera che dobbiamo tenere d'occhio è il giovedì. Allora, cosa è successo? Sapevamo che sarebbe arrivato Conte, poi però ha cominciato a serpeggiare la notizia di questa voce dell'arrivo di Ferrero, e addirittura la voce che si è sparsa è quella di un duetto sulle note di Vita Spericolata. Allora, diciamo che la Vita Spericolata caratterizza un po' gli ospiti di questo, i super ospiti, anzi si dice così, di questo Sanremo 2015, perché, allora, voi lo sapete meglio di me, Conte non sta passando dei giorni proprio sereni. No, difficili, tra poco ne parliamo pure. Ecco, Ferrero è sempre un po' lì, no? Un po' sul filo del rasoio, che è da questa Vita Spericolata. Sì. Poi arriverà domani sera un altro sportivo, Nibali. E anche lì situazione è sempre un po' così, no? Con questi dubbi che aleggiano. Se ci aggiungiamo Tiziano Ferro e Gianna Nannini con l'ombra della Guardia di Finanza, sto Sanremo senza polemiche potrebbe essere appunto un Sanremo con la Guardia di Finanza. Ma scherzi a parte, lo stesso io mi ricordo la Guardia di Finanza a Sanremo in una clamorosa notte del doping che è entrata nella storia dello sport italiano. A Sanremo è un inedito. Ai noi. Ma sentiamo come Carlo Conti ha commentato l'arrivo di Ferrero e anche di Conte. L'ha proprio commentato oggi in conferenza stampa poco fa, sentiamolo. Farà parte sempre di quel pepe, di quell'allegria, di quella spontaneità che per me è fondamentale nell'andare in onda, e il divertimento che porterà. Sicuramente il presidente Ferrero ha portato una ventata di novità nel mondo del calcio. È un personaggio, ci siamo divertiti ad invitarlo per sentire la sua poi canticchia, quindi il suo Sanremo, la sua canzone di Sanremo. Per quanto riguarda Conte, l'abbiamo detto ieri, non siamo noi che ci dobbiamo sostituire ai giudici. Voglio una vita maleducata di quelle. Tu lo sai, Marta Cagnola, che io e Pardo eravamo seriamente candidati per la conduzione di Sanremo, ma poi ci hanno trombati. Sì, Pier. Sì, una vergogna. Inspiegabilmente, ragazzi. Sono quei giochi di potere, eh? Esatto. I giochi di potere ci hanno tenuti fuori. Però ma possiamo. Possiamo no. candidarci l'anno prossimo, io conduco e voi fate la valletta bionda e la valletta mora. Sì. Io però ci darei a fare il biondo, se possibile. Vorrei ossigenarmi. Ma tu cosa, tu invece, se tu dovessi andare a Sanremo, cosa canteresti, Pier? Io canterei Springsteen. Springsteen. Però vai. Non è italiano. No, tanto vale tutto. Una volta c'erano i Beatles. Mary's dress waves like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Vabbè, non vado avanti. Puoi fare qualcosa, Marta? No, io mi sto risparmiando la voce perché questa sera ci sono ospiti a Romina e quindi le devo cantare tutte proprio a squarciagola perché le so tutte a memoria. Ah, ma puoi fare qualcosa per Pierluigi? Cioè, io dai, Pier, me lo organizzo. Pier super ospite, io lo vedrei molto volentieri, visto che appunto non ci danno la conduzione, almeno abbiamo un super ospite, tanto sicuramente canta meglio di Ferrero, ma non c'è neanche. No, vi do uno scoop, che Ferrero l'ho visto 3 minuti fa qui a Mediaset. Sì? Sì, dal nostro amico. Stava facendo i gorgheggi? Stava facendo i gorgheggi, infatti ho fatto tardi, chiedo scusa, ma ero 3 minuti con Ferrero, che è qui a Cologne Monsoise. No, comunque ragazzi, c'è qualcuno che ci frega tutti, perché il nostro Enrico Ruggeri, il Falco di Gabbiano, davvero sale sul palco venerdì sera, quindi siamo fregati, uno di Radio 24, sul palco dell'Ariston. Ci sarà. Ci ha battuto sul tempo. Va bene, in bocca al lupo a tutti. Ciao Marta, a presto. A presto, ciao. A presto. Pier, tu stai lì perché adesso ci tocca parlare dell'ospite atteso o forse mancato, non lo so. Scrivono venerdì Antonio Conte a Sanremo, in questi giorni qualcosina da fare ce l'ha. Tra poco ne parleremo di quello, di TV, di immagini, di anche più tardi Real, Ancelotti e Ronaldo che fa la festa e viene contestato. Se contesti anche Ronaldo non c'è più religione. Le vostre risate, la nostra vergogna, c'erano i tifosi del Real Madrid con questo striscione per contestare Ronaldo alla festa, che ha voluto celebrare la festa dei 30 anni nonostante la sconfitta. E va bene, allora parliamo di tutto questo e di tutto ciò che volete. 800 24 00 24, numero verde, traffico. Mi piace molto Saveglia Carlito. Ma allora, che t'ha fatto sto ragazzo? Fate le tue risate, li vedete tutti seri. Tutti convocati. Che da oggi in avanti si metta una parola fine al discorso arriverà o non arriverà alla fine del contratto, perché ci arriverò che piaccia o no a qualcuno, ecco. Fin tanto che non si arriverà alle riforme dei campionati, dove si giocherà di meno, dove ci saranno, spero, 18 squadre in Serie A, si potrà fare tutto quello che c'è in programma per assistere meglio la nazionale. Adesso Conte dovrà fare di necessità virtù, dovrà essere una persona che sta come obiettivo il risultato, ma dovrà fare anche dei sacrifici. Questo glieli chiediamo e credo che lui li accetti molto volentieri. Tutto il resto è nebbia. Posso far altro che ribadire quello che ho sempre detto, che ho iniziato un percorso, contento di averlo fatto con la nazionale, percorso che a norma contrattuale prevede l'arrivo agli europei e di far possibilmente bene agli europei. Allora, mi pare che Tavecchio, presidente federale, Galliani siano i due vincitori di giornata, per motivi ovviamente diversi. Di Galliani parliamo più tardi, di Conte e Tavecchio subito. Saluto Pierluigi, abbiamo Gianni De Biasi. Ah, grande. Ciao, Gianni. Buongiorno. Buongiorno a te. Buongiorno a tutti. Senti, ciao. Non so se hai in programma degli stage. No. Potrei averli, però sono limitati ai giocatori albanesi, sinceramente. Il resto no. E dato che quasi tutti giocano all'estero, voi siete comunque uomini con la valigia. Sì, esattamente. No, ma sentivo le dichiarazioni prima, di normale che sia così. Conte è un allenatore che lavora molto sul campo e ha portato e sta portando la mentalità del club, ovviamente con tutti gli annessi e connessi del caso, perché purtroppo il lavoro sul campo non lo puoi fare come quando sei nei club. Lui lo sa benissimo, perché poco prima di diventare allenatore nazionale allenava la Juventus e magari gli dava fastidio anche a lui, come tutti gli allenatori in genere, quando i giocatori non sono settimanalmente con il club. Quindi deve adeguarsi alla normale vita di tutti i CT del mondo. Pier, non hai la sensazione che ieri alla fine Conte abbia abbassato la testa e Tavecchio abbia vinto questo braccio di ferro? Sì, diciamo che il problema è stato quantomeno rimandato al prossimo incidente, no? Rinviato a data da destinarsi, nella speranza ovviamente che si riesca a trovare un equilibrio. Io penso che Conte, insomma, queste difficoltà le sapesse, comunque le doveva sapere da subito. È chiaro che il calcio di club domina sulle nazionali, lo sa benissimo lui, che pochi mesi fa era dall'altra parte della barricata. Magari sperava, con il suo carisma, con la sua anche aggressività in senso buono, di riuscire a migliorare questo tipo di rapporto. Non è facile, perché poi ci sono gli interessi dei club, che sono interessi dominanti, insomma c'è poco da fare da questo punto di vista. Però ribadisco, penso che sia tutto abbastanza ricomponibile e credo faccia parte del personaggio, anche se mi dicono che Tavecchio nei giorni scorsi un po' arrabbiato era. Sì, lo era, questo lo sappiamo, sono voci di corridoio ma ampiamente confermate. Come sta andando il lavoro, Gianni? Ma lavoro bene, sono reduce da 3 giorni adesso all'estero, che sono andato a seguire 3 partite in Germania di giocatori che ho lì, e stiamo aspettando con un po' con trepidazione il 29 di marzo, giochiamo in casa contro l'Armenia, partita secondo me cruciale per il nostro cammino. E tu che giocano in Italia, come li vedi? Va bene, Loric direi bene, sta facendo un ottimo campionato, Zana che è il capitano, e Yussei all'Empoli sta facendo secondo me un campionato di grandissimo livello, giocatore che sta crescendo tantissimo, al 94, non dimentichiamolo. E il resto tutti bene, direi. Mi dispiace un po' per Berisha, che sta giocando poco, ieri è stato dopo l'espulsione di Marchetti, però non ha la continuità che dovrebbe avere un portiere per poter rendere al meglio. Penso avesse avuto anche Shaqiri. Sarebbe male, eh? No, non è male, non è male, no. Grande giocatore secondo me, grande piccolo giocatore, nel senso sto giocando sulle parole, secondo me non ha ancora dimostrato il suo valore, ha bisogno di ambientamento anche lui qui, però secondo me può dare molto, specialmente nel nostro campionato, dove la qualità, i giocatori che riescono a rompere un po' gli equilibri difensivi, lui è uno di quelli veramente. Pier, tu l'hai commentato domenica sera, laterale o trequartista? Ma ha dei piedi secondo me che si adattano in tutte e due le zone, quindi poi alla fine secondo me è più legato alle esigenze della squadra e all'idea di gioco, l'idea di modulo che vuoi fare. Shaqiri ha enormi qualità, deve secondo me diventare ancora più concreto se possibile, perché credo che nella dimensione del calcio italiano possa fare la differenza in maniera veramente molto pesante, molto significativa, e deve diventare un giocatore che produce tanto in termini di assist per i compagni, anche di possibilità di arrivare al tiro, quindi però secondo me li può fare tutte e due. La domanda la girerei al mister, ma insomma credo che possa fare tranquillamente il trequartista e eventualmente anche la punta esterna in un 4-3-3. Sì, lo può fare, Pier. Secondo me lui il ruolo che predilige è giocare a destra per rientrare sul sinistro, andare al tiro alla rifinitura. Quello è la cosa che proprio è insito ormai, perché ha giocato per anni in quel ruolo lì, anche con la nazionale svizzera, con Hitzfeld giocava in quel ruolo. E io credo che sia un giocatore che ancora noi non abbiamo visto bene. Io lo conosco molto molto bene ed è un giocatore che ha continuità, ha rapidità, resistenza, lo vedi tracagnato così, ha una forza che non lo sposti neanche a morire, e poi anche tiro, quindi io credo che appena riuscirà a trovare la giusta combinazione tra tutti gli elementi che sono adattamento e tutto il resto, allenamento e tutto, i ritmi vari, credo che sarà un giocatore che darà soddisfazione ai tifosi dell'Inter. Gianni, avrai seguito ovviamente le ultime trovate polemiche del campionato italiano, quelle geometriche ti hanno fatto più sorridere o più incazzare? Dimmi la verità. Io rido, oramai rido, dico sinceramente, non si può scendere a quel livello lì, sinceramente trovo che sia intanto brutto, un segnale che arriva dall'alto, brutto segnale, e al tempo stesso non aiuta il nostro calcio. Noi abbiamo bisogno di ben altro, non dei centimetri, se prendi gol perché c'era l'unghia in fuorigioco, dai, non, di queste cose qua veramente trovo che siano delle scuse da poco. Intanto c'è un club che è stato rivenduto a un euro oggi e la Lega credo che avrebbe questioni più serie di cui occuparsi invece. Occuparsi, esattamente, no? Esattamente, sì, direi proprio di sì. Interrogarsi come mai, io vengo dalla Germania, ho visto due partite di Serie B e una di Serie A in Germania e vi dico che è un altro spettacolo. Sono stato a Colonia e stadio pieno, 49.500 persone per vedere due squadre che l'anno scorso tutte e due erano in Serie B, per dire, con stadi fruibili, dove c'è di tutto e di più, dove arrivi facilmente. Dobbiamo ripensare un po' a tutto questo e probabilmente anche a qualcosa d'altro. Gerard, sei d'accordo? Sono d'accordo, anche se io, da inguaribile ottimista, vedo dei segnali incoraggianti quest'anno nel calcio italiano, almeno dal punto di vista dei risultati in Europa League, di una certa consapevolezza della nostra crisi. Secondo me il dato rispetto al passato, e secondo me l'Europa League questa volta la spiega benissimo, è che finalmente abbiamo preso coscienza delle nostre difficoltà e delle cose le stiamo cominciando a fare. Secondo me Conte CT è una scelta che va in questa direzione, perché secondo me ha chiaramente le qualità per poterlo fare molto bene, e in generale mi sembra che ci sia più consapevolezza dei nostri problemi, insomma, è il punto di partenza per cominciare a far meglio. Questa è la mia idea. Sperem. Gianni, un'ultima cosa, mi dai una lettura dal tuo punto di vista, dal tuo scranno sul campionato italiano, sulla lotta al vertice? Lotta al vertice, che credo che c'è o non c'è? Beh, non c'è lotta per il primo posto, credo. Credo che la Juve possa, con la rosa che ha a disposizione, possa vincerlo discretamente, facilmente, anche se è brutto da dire, da allenatore poi non dovresti dirlo mai, però io sono in questo caso neutrale, quindi lo dico tranquillamente. Credo che la Juve abbia qualcosa in più degli altri e sarà bello capire la lotta per il secondo posto, se il Napoli avrà la continuità di rendimento che sta avendo in questo ultimo periodo e se la Roma si risveglierà da quel piccolo letargo che l'ha colpita nelle ultime partite, a parte Cagliari domenica. Sì, grazie Gianni, buon lavoro. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao. Dunque, hai sentito, Pier? Lotta per il secondo posto per il signor Gianni De Biasi. Sì, anche se io aspetterei un attimo. Arrivano gli africani. No, ma appunto io aspetterei un attimo per un motivo semplice, perché io credo che sicuramente la Juve in questo momento è più forte, è più brillante, ha 7 punti di vantaggio, è quella che ha vinto gli ultimi campionati, quindi è anche più abituata a vincere, quindi tutti gli indizi vanno da questa parte. Però insomma mancano 16 giornate, 7 punti non sono un margine così clamoroso, e non mi ricordo chi ieri sera a Tiki Taka diceva, in fondo alla fine, se vogliamo, la Roma in questa fase di crisi ha perso qualche punto, ma non tantissimo, però ancora potrebbe tornare in corsa. Certamente deve cambiare passo, certamente l'impatto degli africani è tutto da verificare, perché non solo hanno saltato un mese, ma sono anche, bisogna capire anche come stanno in condizione, devono riabituarsi. Però è chiaro che se la Roma ricomincia a vincere le prossime due partite, per esempio arriva lo scontro diretto del 2 marzo, mettiamo con 4 punti, almeno se, beh, 4 punti mi sembra difficile, perché anche la Juve ha un calendario facile, però insomma se già arriva a meno 7 e poi se la può giocare. Certo, avrà un solo risultato, ecco, io credo che noi arriveremo al 2 marzo, comunque andrà a finire con la Roma che avrà un solo risultato per poter riaprire il campionato, però di tempo ne manca, insomma, la storia del campionato fa sì, però tutti gli indizi ovviamente vanno nella direzione della Juve, che in questo momento è più brillante, è avanti in classifica, è più abituata a vincere. Il signor Cairo da te contento ieri sera? Sì, io devo dire che poi mi sono arrivati un po' di messaggi, no? Cairo Braccino, l'abbiamo anche giocato. Cairo Braccino. Sì, ormai è quasi un modo di dire. No, ma io faccio fatica, perché da un lato ho un rispetto profondissimo ovviamente della storia del Toro, e so benissimo che il Torino, che è una storia bellissima, romantica, poetica e anche vincente, però l'ultimo scudetto, che ormai insomma ci siamo separati quasi da 40 anni dall'ultimo scudetto del Torino. Questo è un discorso che secondo me riguarda tante realtà importanti del nostro calcio, con dei tifosi che nel passato hanno avuto delle squadre capaci di vincere i campionati e che oggi nel calcio moderno, che è un calcio dove i bacini di utenza contano tantissimo, fatica. Ieri Cairo l'ha detto: il Torino fattura 60 milioni di euro all'anno, la Juve fattura 300. Certo. Pensare che il Torino possa essere una squadra capace di inserirsi nella lotta per il titolo è difficile. Poi certo, si potevano non vendere Cerce Immobile, però Cerce Immobile, signori miei, tratta di capire quali sono le dimensioni e quali sono le possibilità, Pier, cioè, perché alla fine la storia conta fino a un certo punto. Il massimo possibile. Esatto, il Torino è quello che penso anch'io. In qualche modo anche il discorso che secondo me si può fare sullo Tito, che certamente ha degli atteggiamenti dal punto di vista della comunicazione, un rapporto con la razzialità, che è una cosa grande, profonda, ovviamente il tifoso della Lazio è innamoratissimo, eccetera. Delle uscite sono state poco efficaci, secondo me, da parte di Lotito. Da questo punto di vista non ci sono dubbi. Però se dobbiamo giudicare i risultati e vedere in che condizione di classifica è questa squadra, e che squadra è, che prospettive future ha, con i talenti, Felipe Anderson e via dicendo, beh, insomma, dal punto di vista tecnico è difficile fargli una critica. No, è impossibile, abbiamo detto molte volte. Sono due casi abbastanza simili. Sono casi perché simili, sono certo. Grandi tifoserie che nel passato, più recente, nel caso della Lazio, sono arrivate anche a vincere il campionato, a vincere coppe europee. Oggi però con quel fatturato lì, il professor Berinazzo ci insegna che è molto difficile competere. Questa, se vuoi, è la iattura del calcio moderno. Sì, ma chiaro, la storia, ma sai, con la storia a questo punto ci fai pochi soldi, no? E quindi la dimensione di questi club è questa, e stanno facendo davvero tanto, sia Cairo che Lotito, per questi due club. A proposito del professor Berinazzo, lo convochiamo dopo. Convochiamo invece subito gli ascoltatori. Dopo la borsa, Leonardo e Giorgio sono già in linea. 800 24 0024, il numero verde. Cerchiamo di lavorare uniti, sapendo che ci saranno e ci sono delle grandi difficoltà, però da parte mia, da parte del Presidente, da parte di tutti c'è grandissimo entusiasmo, grandissima voglia di fare qualcosa magari anche di inaspettato. Tutti convocati. Tutti convocati all'800 24 0024. Per la cronaca, Nagatomo fuori 6 settimane per l'Inter, che cerca il tedesco Lel, ex svincolato naturalmente, ex Borussia, ex Bayern Monaco. Mudingai va al Cesena, Osvaldo vola in Argentina per inchiostrare il contratto con il Boca Juniors, 2 mesi più opzione per altri 2 anni, ma tanto, cioè 5 mesi, ma tanto cambierà squadra come al solito. E c'è l'ennesimo no di Cairo a Cassano, come Pardo sa perfettamente. Dice, siamo no, a posto con... Non lo sapevo. Non lo sapevi? No. Dice, quando l'ha detto? Adesso te lo dico, credo oggi. No a Cassano, siamo a posto con Quagliarella, eccetera eccetera. Quindi niente Cassano al Torino, come da noi anticipato mesi fa. Stavamo scherzando. Punto a giovani e uomini di esperienza che possono pensare allo spogliatoio ed è quello che conta, eccetera eccetera. Leonardo, provincia di Macerata, buongiorno. Buongiorno e grazie della convocazione. A lei, dica. Io volevo intervenire su Antonio Conte, ma nel frattempo ho cambiato domanda. Ha cambiato. Io va sono vale. Juventino. Sì. Come? Vale cambiare domanda. No, io sono Juventino un po' stanco, anche dalle ultime cose che sono successe in settimana, arrivare al punto di dire che le linee sono storte. Io pensavo che dopo Calciopoli, anche dopo i veleni che ci sono stati e tutto quanto, le altre squadre, le altre licenze e tutto quanto, avessero cercato di abbassare un po' i toni. Invece credo che dopo questi discorsi siamo arrivati veramente all'assurdo. Ecco, tutto qua, insomma. Dopo le partite rubate, i soliti discorsi, è arrivato il punto che le televisioni, se per me, siamo proprio all'assurdo. e penso che non è questa la strada giusta se vogliamo cambiare mentalità. No, è quella sbagliata, ma lo sapevamo già. Di televisione tra poco parleremo anche. Pardo ne ha parlato ieri sera in lungo e in largo, ovviamente, visto che tra l'altro è un'autorità in materia. Però a leggere i giornali di oggi sembra prevalere, sembra che prevarrà in Lega la linea Galliani, no? Cioè quella di una Lega che produrrà le partite, non più Sky e Mediaset, più il soggetto terzo a dividersi la produzione delle partite, ma una TV di Lega, almeno per quanto riguarda la produzione. Ma io non ci vedo niente di male, anzi ribadisco, tutto ciò che in qualche modo finisce per togliere pressione e responsabilità alle televisioni, l'ha detto anche Caressa l'altro giorno, lui è direttore, io no, ma insomma, quindi non sono io che posso prendere una presa di posizione ufficiale, la mia a livello strettamente personale, però credo che vada nella direzione giusta, nel senso che davvero tutto ciò che può sgombrare il campo da ogni possibile sospetto, perché no? Lo dico proprio molto, molto sinceramente, i registi indipendenti, i freelance possono esistere, possono essere presi da fuori e può essere una strada, insomma, da questo punto di vista il ragionamento ci sta, però va bene così, insomma, secondo me è importante da questo discorso qui arrivare a una discussione costruttiva, insomma, sì. Quello che abbiamo in qualche modo cercato di fare anche ieri sera. Sì, poi sarebbe interessante anche capire le ragioni profonde di tutto questo, perché a me continuano a non tornare alcuni conti. Giorgio Prato, buongiorno. Grazie dell'amicizia, della compagnia che ci fate, ragazzi. Grazie a voi, grazie a lei. Ascolta, io dico, parlano tutti giustamente della continuità ritrovata da Napoli, no? Però io mi permetto di far rilevare che, dati alla mano, negli ultimi tre mesi la squadra subito dopo la Juventus più continua è stata la Fiorentina, che in 11 partite ha fatto 22 punti. Purtroppo la Fiorentina nelle prime 11 con 13 punti ha scontato in maniera incredibile la mancanza di attaccanti, non aveva attaccanti, però secondo me il recupero di gente importante come Gomez e il mercato geniale che è stato fatto nel mese di gennaio, in special modo mi riferisco a Diamanti ma anche a Salah, secondo me ne fanno una candidata autorevolissima al quarto posto e sì. Anche con la possibilità anche di dare un'occhiatina al piano superiore, non so cosa ne pensate voi. Io penso di no, al quarto posto sono d'accordissimo, sì. Io credo che le prime tre ormai le sappiamo, da questo punto di vista mi ha deluso la Lazio, perché la Lazio aveva avuto dei valori di punta in alcune partite davvero eccezionali e le ultime due sconfitte francamente sono chiaramente cambiano molto lo scenario e non penso che il Napoli a questo punto con 7 punti di vantaggio si potrà distrarre, l'avevano detto alla fine del girone d'andata, l'avevo detto varie volte che il Napoli secondo me se non fosse arrivato terzo sarebbe stato un disastro, era chiaramente in condizione di poterlo ottenere questo risultato e di provare anche a crescere, a mettere in difficoltà la Roma, mi sembra che le prime tre siano quelle, subito dopo vedo Lazio e Fiorentina, quindi sì. Secondo me poi Lazio e Fiorentina sono le più sicure dell'Europa League, se devo fare una previsione ad oggi, e poi vedremo se una milanese riuscirà a reinserirsi e poi ci sono le genovesi, insomma, il duello è quello lì. Sì. Ed è divertente, guarda, ieri c'è un pezzo di De Bellis, secondo me è giusto, il campionato che dal punto di vista del primo posto in questo momento ci sta un po' deludendo, dal punto di vista dell'equilibrio dico ovviamente, perché la Juve sembra molto sicura di se stessa e forse non avremo la lotta che si pensava di poter avere fino all'ultima giornata, però dal punto di vista invece della sfida per l'Europa League mi sembra molto interessante. Se decapitiamo il campionato, esatto. Diventa tutto molto, molto interessante. Poi non... il secondo posto. Tra le prime tre io vorrei aspettare ancora, anche se la Juve è nettamente favorita. Non un caso Napoli e Fiorentina abbiano vinto secondo me l'Oscar del mercato in questa sessione invernale. Comunque poi ognuno prende lo spaccato che vuole. Nel 2015 il Napoli è la squadra che ha fatto più punti, 4 vittorie e una sconfitta, che ricordiamo quale. Voglio farvi sentire invece, collegato Marco Belinazzo, voglio farvi sentire Fiorenzo Alborghetti, nuovo incaricato di gestire il passaggio di proprietà a Manenti al Parma. Il CDA ha sancito che Giampiero Manenti ha acquistato il Parma e oggi è diventato il presidente, per cui oggi abbiamo già fatto un bel passo, perché Manenti oggi, oltre ad essere il padrone del Parma, ha tutti i poteri per ottemperare a tutte le scadenze che ci sono da qui al giorno 16. I soldi quando arriveranno? Il bonifico quando arriverà? Questi giorni. Quanto serve? 30, 40, 50 milioni? Guardate, 100 se volete, nel senso vanno presi e gestiti senza buttarli via come magari sono stati fatti in questi anni qua. Marco Belinazzo, arrivano i soldi o restano le chiacchiere? Bella domanda, bella domanda. Mamenti e il gruppo Mapi con relazioni internazionali che arrivano fino a Gazprom, come ci è stato raccontato, sarebbero una garanzia. Ahimè, le prime verifiche, le prime visure camerali ci dimostrano il contrario, cioè che di russi e di potenti gruppi petroliferi alle spalle della Mapi Group non se ne vedono. Mamenti aveva tentato di acquisire già qualche squadra in passato, la Provercelli, Brescia, senza riuscirci, e mi domando dove arrivino questi fondi che servono a pagare gli ingaggi. Mi domando come mai un uomo esperto, un imprenditore navigato come Taci, abbia prima preso, peraltro mai formalmente, una squadra e subito dopo si sia accorto che la situazione debitoria era peggiore di quanto presentato, visto che normalmente si fa una due diligence. Insomma, il quadro mi sembra ancora non autorizza confuso. Dico, fonti vicine a Ghirardi dicono che la due diligence, che lo diciamo in termine tecnico, è un momento di, correggimi se sbaglio Berinazzo, di gestione fatta insieme, no? Perché il compratore e il venditore devono praticamente mettere in comune le esperienze. Il compratore deve vedere se gli resta l'euro da spendere. Si guarda soprattutto. Dicono che c'è stata la due diligence fra Ghirardi e Taci, no? Immagino di sì, perché normalmente la due diligence comporta il fatto che il compratore possa vedere, diciamo, il 90% dei documenti, mettiamola così, non quelli nascosti magari in cassaforte, e capire esattamente qual è la situazione del club per capire se sta offrendo un prezzo giusto o meno. Perlomeno non gli devono essere nascosti i vizi essenziali, come quando vai a comprare un vestito in un negozio, non ti possono nascondere, diciamo, le scuciture più evidenti, magari. No, se non gli riporti dietro ti fai dare i soldi. Ragazzi, vi chiedo un attimo di pazienza, perché siamo in ritardo sul traffico e devo rispettare i nostri orari. Poi torniamo. La promessa c'è, i tempi tecnici sono molto importanti e devono essere rispettati da oggi, altrimenti andiamo un po' lunghi. Comunque pagheremo tutto. Tutti convocati. Allora, diciamo di quell'euro, Marco Belinazzo. Sì, ieri Toca, che vi ricorderete che è stato il primo presidente indicato nella nuova gestione, il gioielliere di Piacenza che poi si è tirato indietro, uscendo dall'assemblea che ha ratificato il passaggio a Manenti, ha detto appunto che loro avevano acquistato la società per un euro e l'avevano rivenduta per un euro perché il problema sono i debiti. Ora, non è il rituale che si compri una società per un euro, una sterlina, accollandosi i debiti. Il problema era che a occhio e croce il valore del Parma non doveva essere di un euro, non dovrebbe essere di un euro. Quindi qui c'è da capire cosa è successo nella gestione del Parma, e al di là delle parole rassicuranti di Ghirardi ci sono autorità che hanno il potere di andare a investigare, e al di là del fatto che la Lega Calcio non abbia purtroppo le norme, la Lega Calcio di presidio, ci sono però delle norme di presidio, sì, diciamo, a livello civilistico e penale. Cioè, voglio dire, quando un notaio fa un atto e ci sono dei sospetti, e qui i sospetti ce n'è tanti, ha l'obbligo di fare determinate segnalazioni antiriciclaggio alla Guardia di Finanza. Alla Lega Calcio, ma Marco, alla Lega Calcio si stanno occupando di altre cose, come sai queste. Shari's like a melody in my head that I can't keep on, got me singing like stuck on replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out, got me singing like na na na na every day's like my eyeballs stuck on replay. Replay, remember. Membrelli e Vrà. Antonelli cade per terra sotto gli occhi dell'abito di Portabanti. In questo episodio guardate quanti replay ci sono, ne avete visti già due, questo è il terzo. Continuiamo, quattro replay, questo è un altro replay da un'altra telecamera. E qui ci sono certe partite dove vedo tantissimi replay sul fuorigioco, certe partite dove ne vedo meno. Però guardate qua quanti replay ci sono, almeno 5. Spesso la regia ti chiede come primo replay, ti chiede proprio il fuorigioco, è stato dato invece dalla camera che è spostata perché sta sulla linea della, dell'area. In realtà quello che secondo me è successo è che chi ha lavorato in diretta ha utilizzato un'inquadratura sbagliata, nel senso che il fuorigioco si lavora sull'immagine della telecamera del fuorigioco, in quel momento però il fuorigioco è capitato a centrocampo, quindi l'inquadratura migliore per giudicare il fuorigioco o meno era dalla camera centrale. Allora, così ieri sera a casa Pardo a Tiki Taka, Cesari e Pizzamiglio, che è quello che sì, insomma, gestisce le immagini, cioè le famose linee di Galliani, ecco, le famose linee di Galliani, la parte tecnologica. Marco Berinazzo, intanto oggi c'è stata questa, quindi possiamo interpretare tutto questo, se avverrà, cioè la TV di Lega, come una vittoria di Galliani? Aggiungo oggi notizia che ti riguarda da vicino, più finanziaria che sportiva: i cinesi hanno comprato la famosa Infront, il signor Wang Jianlin, 1,05 miliardi di euro, e diventano proprietari di Infront. Allora, provo a rispondere velocemente. Innanzitutto, se mi permetti, chi è curioso della vicenda Parma può andarsi a leggere il mio post sul blog per questa strana coincidenza del Nova Gorica, dove avrebbe sede la MAPI, e troverà delle belle sorprese. Chiuso il capitolo Parma, almeno per ora. È chiaro che è un falso problema quello della TV della Lega, nel senso che di TV della Lega si è parlato molto, anche quando, forse vi ricorderete, si discuteva all'inizio del rinnovo del contratto TV per il triennio 15-18, 2015-2018, che poi è stato assegnato a Sky e Mediaset, e c'è già tecnicamente la possibilità della Lega di produrre le partite, di avere un proprio canale. La Lega ha anche le relative autorizzazioni, ed è stata usata questa anche come una sorta di arma di minaccia, se vuoi, tra virgolette, nei confronti dei broadcaster, perché offrissero un prezzo adeguato in serie di asta, come poi avvenuto. Quindi diciamo, le condizioni già c'erano, che poi sia una vittoria politica di Galliani, che tutto questo ambaradan sia stato montato per arrivare a quello, per arrivarci nella prossima assemblea della Lega di venerdì, non mi sentirei di dirlo, perché peraltro me ne sfuggirebbero le ragioni più profonde. Sì. Non si vincono i campionati controllando i registi, a meno che non siano Pirlo, mi viene da dire. posso dire però una cosa? Io trovo abbastanza incredibile questo tipo di clima che c'è, nel senso che poi tutto viene ridotto alla politica. Allora, adesso, oggi Infront è stata comprata per una cifra straordinaria. Io, se devo vederla da fuori, e da fuori soltanto la posso vedere, questa è un'agenzia che, oltre a produrre una serie di eventi in tutto il mondo in maniera straordinaria da un punto di vista proprio di produzione, è riuscita nel giro di qualche anno, in un mondo in contrazione su tutto, dove siamo in crisi su tutto, beati loro, a dare alle società italiane molti più soldi di quelli che guadagnavano il contratto precedente. Cioè, questo è l'aspetto tecnico, e credo che sia la cosa fondamentale se amiamo questo gioco. Cioè, il fatto che comunque le società, grazie a questa agenzia, che poi sarà simpatica di più ad alcuni e meno simpatica ad altri, è riuscita ad aumentare i profitti per le società. Perché le televisioni questi soldi li hanno spesi. Cioè questo secondo me è un modo laico di guardare la questione. Poi che sia amico di Galliani, che sia amico di Preziosi, che sia meno amico di qualcun altro, questo è veramente un discorso secondo me molto relativo. Un aumento Pier del 20% rispetto al precedente contratto. Ma che poco, una provocazione, se trovo uno domani mattina che mi aumenta lo stipendio del 20% anche al dottor Genta, al dottor Beninazzo, alla fine gli stringo la mano. Questo mi sembra il primo elemento. Poi ovviamente sul discorso, tutti i discorsi di questi giorni io non li ho capiti, i registi indipendenti, faccio un po' fatica, credo che sia venuta fuori ieri con chiarezza da una parte e dall'altra la scheda media, sento comunque insomma l'assoluta onestà intellettuale di tutti, che credo, anche perché poi in un mondo come quello della televisione di oggi si vede tutto, si giudica tutto, se fai le cose sporche si vede, quindi in questo discorso l'ho capito di meno, ma che poi questa agenzia stia lavorando nell'interesse delle società, questo mi sembra proprio pacifico. L'interesse suo e delle società, come se giustamente sia. Se mi fa da gente, domani mi fa guadagnare il 20% in più, io gli stringo la mano, sinceramente. Carlo, aggiungo un particolare, se c'è ancora un 30 minuto. Secondi. Allora, tecnicamente è stata acquistata da Wanda, dal gruppo Wanda di Jianling, Infront International, quindi anche Infront Italy per 1 miliardo, come hai ricordato. Peraltro Jianling è anche il primo, forse il secondo uomo più ricco della Cina, ma fa poca differenza, e ha recentemente acquistato per 45 milioni l'Atletico Madrid, il 20% dell'Atletico Madrid, ed sta finanziando con un programma da 20 milioni di euro un'intensa collaborazione dal calcio giovanile spagnolo e cinese, perché intende far sviluppare il calcio in Cina. Ecco, questa potrebbe essere magari un'occasione anche per l'Italia per inserirsi in questo filone. Sì, certo, non è un uomo d'affari, certo. Certamente non sarà esclusivamente un benefattore, però non vedo quale sia il male assoluto. Grazie Marco Beninazzo. Pier, con te ci sentiamo domani. Se c'è una cosa nel calcio italiano depresso, deluso, abbandonato, come cantava Dalla, è che le televisioni funzionano, sì, e che le società sono riuscite in questi ultimi anni a crescere a livello italiano, a livello internazionale. Certo, quindi, certo. Se poi dobbiamo fare polemica su tutto. Se poi vogliamo fare discorsi di retroguardia, facciamoli pure, con buona pace di tutti. Grazie Pier. Domani. Ciao. GR. Pardo, sei un grande, però sei un po' paraculo, te lo dico io. Tutti convocati. Porte aperte naturalmente nell'arena ai convocati. 800 24 00 24. Edoardo da Firenze, buongiorno. Buongiorno Genta, buongiorno Pardo. Buongiorno. Pardo, se n'è andato. Ah, se n'è andato. Sono rimasto solo, sì. Ah, io sono un fiorentino, ma sì, grande tifoso del Napoli. Sì. E ho tre problemi da porvi sul Napoli. Tre domande, tre quesiti. Sì. Siccome sappiamo ormai tutti che Benitez se ne andrà, diciamo, con molta probabilità, normalmente quando succedono queste cose le squadre ne risentono, ovviamente i giocatori quando sentono la fine di un ciclo hanno delle reazioni negative. Non le stiamo vedendo. Perché secondo te, e se c'è il rischio che le vedremo a aprile quando lui dirà definitivamente che non c'è? E a questo si aggiunge il secondo problema. Quando arriverà un nuovo allenatore, presumibilmente avrà un modulo più normale, diciamo, magari con un centrocampista in più, un attaccante in meno. Sì. Si pensa ad Allan, a Gon, Alonso sempre, e dovremo sacrificare qualcuno? Mertens, Caleon? È previsto che un provvedimento del genere, secondo voi? Allora, poi il terzo quesito dopo, però se no mi dimentico i primi due. Quanto a Benitez, è molto probabile che se ne vada, non è ancora stato ufficializzato. Ricordo soltanto che Jupp Heynckes non tanto tempo fa ha fatto il triplete esautorato a gennaio, se lo ricorda. Quindi dipende tutto dalla professionalità e depone in questo caso a favore della professionalità di allenatore e giocatori. Non vedo perché, se sai che il maestro va via, devi metterti a prendere quattro in pagella tutte le volte. Quindi credo che Benitez andrà via, credo che il Napoli potrà comunque reggere e resistere. Quanto alle partenze, tutti dicono che Caleon potrebbe cambiare aria, che Napoli non si trova più così bene, che gli manca molto il fratello che sta giocando negli Stati Uniti, tante cose, però ci sono segnali per cui Caleon potrebbe andare via, il che non vuol dire niente. Poi stiamo a vedere chi arriva a Napoli, stiamo a vedere anche se ci può essere un, come dici tu, un allenatore più normale. A me Benitez e il suo calcio piacciono molto, quindi vediamo, vediamo se Benitez va via, vediamo chi arriva, poi proviamo a capire. C'era un'altra domanda? Non c'è più l'ascoltatore? Esattamente, cioè, straordinario. L'altra domanda è: se qualcuno dovesse pagare dalla clausola rescissoria di Higuain, oltre a mettermi a piante, c'è qualcuno su piazza che con quei soldi, cioè, esiste un altro possibile acquisto? Non so, Gerson Martinez sarebbe all'altezza. Gerson Martinez andrà via dal Porto, dicono, non credo che sia all'altezza di Higuain per nulla, credo che ci siano pochi attaccanti al mondo all'altezza di Higuain, credo che se però qualcuno arrivi lì con un camion pieno di soldi per versare a Claudio Recessore di Higuain, il discorso si farebbe serio perché Higuain potrebbe andare via. Però, ripeto, mi sembrano tutti discorsi molto molto ipotetici al momento. Natale Palermo, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. A lei. Io ho un dubbio sul comportamento di Antonio Conte, allenatore della Nazionale, cioè nelle sue interviste alla fine lui si esprime con frasi sibilline che sono dei veri e propri strali nei confronti di qualcuno. Lui usa un atteggiamento che usava quando era alla Juve, cioè trovarsi il nemico per accentrare su di sé l'attenzione mediatica, ma con la Nazionale non ha senso. Cioè, voglio dire, la Nazionale è amata da tutti, gli italiani vogliono bene la Nazionale, con chi ce l'ha realmente Conte? Conte ce l'ha con quelli che non gli prestano i giocatori, quelli che non gli lasciano fare tutto ciò che vuole. Conte ha anche, secondo me, abbastanza l'abitudine di mettere un po' le mani avanti. Lo faceva la Juventus, l'ha fatto lo fa anche con la Nazionale. Quindi, secondo me non paga allo stesso modo, tipo l'atteggiamento, non è. Ma sì, però lui comincia a dire: va bene, io vengo qui, alleno, se non mi date i giocatori, non mi fate fare gli stage, non fate quello che dico io, però non mi chiedete di vincere gli europei, non mi chiedete anche i risultati. L'atteggiamento mi sembra un po' questo, può essere letto anche in un'altra chiave. Insomma, io qui non sto bene, mi sento mal sopportato, se vi va me ne vado, magari al Paris Saint-Germain dove stanno cercando un allenatore, o al Manchester City dove pure cercheranno un allenatore l'anno venturo, oppure su al Milan come è stato detto da qualcuno, oppure da un'altra parte ancora. Può essere letta maliziosamente anche in questi termini, e l'abbiamo pure fatto. Un salto in Spagna, così facciamo contenti molti ascoltatori che ci mandano sms a ripetizione tra crisi del Reale e Coppa d'Africa. Se tu non te innamoras, podemos pasar un par de horas, lo podemos repetir sempre che ti sientas sola, tu e io, sorry. Se tu non te innamoras, podemos pasar un par de horas. Filippo Maria Ricci dalla Spagna, per noi la Gazzetta dello Sport, ciao. Buon pomeriggio. Chi è questo che canta? Non è a Sanremo, non andrà a Sanremo. Non lo so, pensa. Ma non lo sai. Lo so, grave, lo so, stavo pensando che questo mi becca in castagna. Aspetta. Sicuro che me lo chiede, oh. Aspetta. È l'uomo dello scandalo, no, Kevin Roldan. Grandi, ecco perché non mi suonava. Ecco perché non l'hai mai sentito. Perché non hai il CD in macchina, per quello. No, esatto, ecco perché mi stavo sentendo veramente male. Possibile che non lo conosca, allora c'è una ragione, c'è questo 21enne, il grande Kevin Roldan, un uomo, un mito. No, allora lo sai questo. Che ieri, aspetta, no, sì. Lo sai che ieri ha emesso un comunicato. Chi? Forse in Italia non è arrivato Kevin, non Roldan. Siete sulla notizia. No, confesso di no. Ha messo un comunicato per dire che lui non ha fatto niente di male, che è stato un onore lavorare con il pallone d'oro, e che nessuno soprattutto gli aveva detto che non poteva appostare in Dio. Ah, ecco. Allora, per riassumere in una parola e mezza, Kevin Roldan, 21enne cantante colombiano, è quello che ha cantato alla festa dei 30 anni di Cristiano Ronaldo, ha cantato anche con Cristiano Ronaldo proprio questa canzone, tra l'altro. Era questa, quella con il microfono rosa. Bravo, sì, era questa. Dopo la sconfitta, anzi la sconfitta, l'umiliazione del Real Madrid 4-0 nel derby, e poi ha postato tutti questi bei video, guardate dove sono stato, ma che meraviglia, che figata. Cristiano si è avvelenato, e adesso c'è anche un problema perché quello è un amico di James, perché è colombiano, no? Chi l'ha portato lì? E quello è James, ha detto: no, c'è un amico, viene un amico mio. L'hanno fatto viaggiare in prima classe. Infortunato, dai. Sì, quindi adesso c'è grande il caso diplomatico, sì. Però al Madrid sono avvelenati. Tant'è vero che ieri hanno impedito al povero Ancelotti di andare a Sky. no? Ah sì? Ieri sera sì, mi sembra di aver capito questo. Ma non sono un po' eccessivi, cioè, va bene tutto, sì, ma arrivano con gli striscioni, le vostre risate, la nostra vergogna. La cattolicissima spada, tu devi sempre pensare in questa chiave, che qui si indignano facilmente, a volte come gli indignados per motivi anche seri e corretti, altre volte no. E quindi adesso c'è tutta questa il moralismo del madridismo, una cosa patetica, sinceramente. In Italia facciamo scuola su questo. Vabbè, però c'è. Cioè, no, ma loro qui hanno solo una grande paura, che in realtà è assolutamente mal riposta, che il Galattico 2.0 finisca come l'1.0, cioè che lì erano tutte feste, però perché lì c'era Ronaldo, quello vero, quello lì che sapeva fare le feste. Certo. Chiamava il colombiano di 21 anni, magari chiamava 10 colombiane di 21 anni. Certo. Sto Ronaldo, poveretto, l'hanno messo in croce, poveretto, l'ha lasciata Irina, compie 30 anni, non beve mai, non fuma, sta sempre lì che si allena. Fa 3 gol a partita, no? Cosa vogliamo da lui? Ma io non. Ma io sono assolutamente d'accordo. Però qui c'è questo lo spauracchio di vedersi arrivare Robby Fowler su un aereo privato, come succedeva ai bei tempi, in quanto amico di Steve McManaman. Situazioni imbarazzanti, e Florentino le ha vissute. E quindi ieri è andata a Valdebebas a dire: ragazzi, seri, calmi. Però secondo me questa generazione qua di festaiolo ha molto poco, non può neanche, non gli può neanche legare le scarpe a livello di party time, no, con Galattico 1.0. Appunto, poi è vero che hai perso 4-0 in derby, capito? Chiaro. Mi sembra un gruppo del tutto tranquillo, assolutamente vincente. Sono ancora in testa alla classifica, favoriti numero uno in Champions League, hanno fatto record di vittorie consecutive. Possono avere una flessione, che gli vogliamo chiedere? Il sangue? No, esatto. No, il problema vero è che la squadra è un po' in calo, perché i nodi vengono al pettine e l'equilibrio è andato a farsi benedire. E adesso per Carlo, con le assenze, una volta che lui aveva una squadra tipo, per quello giocavano sempre gli stessi e hanno fatto 22 vittorie. Una volta che non ci sono più sempre gli stessi, comincia a essere complicato. E ora vediamo come la risolve. Insomma, per Carlo è complessa la situazione, perché non è che questa rosa abbia poi tante alternative. Sì, deve ridisegnare qualcosa, insomma. Lo so, però poi c'è quei tre che devono giocare per forza. Cioè, già da lì partiamo tre fissi. Sì. E poi, appunto, se quei tre non aiutano, è un casino. Certo. Penso Xabi Alonso. Chi difende, lo dicevamo, ma noi ne abbiamo parlato tante volte. Certo, chiaro. Era un mezzo miracolo, no? Era una questione di sottilissimi equilibri. Ci si sono messi gli infortuni, magari anche può esserci un lieve calo di rendimento fisico, possono esserci mille piccoli problemi che possono portare a una vaga e passeggera crisi. Poi vediamo il Barça, che una settimana fa sembrava sprofondare nelle polemiche con il cappio pronto per Luis Enrique, adesso ne è un punto, no? 9 vittorie di fila. Perché il Barça, però, sono successe anche delle cose. Messi l'hanno tranquillizzato, probabilmente gli hanno detto: comandi tu, va bene. Luis Enrique l'hanno un po' cloroformizzato, il suo integralismo è stato annacquato. Hanno promesso le elezioni e quindi si è calmata anche la massa sociale, e adesso si vede, insomma, lì la chiave è che Neymar sta facendo veramente, sta dimostrando quello che, diciamo, si pensava di lui. Sì. E poi Messi è tornato a giocare Messi fa il Messi, ragazzi, è un casino per tutti. A proposito di massa sociale, io sono 2 giorni che ricevo telefonate, messaggi, la Coppa d'Africa, parlami della massa sociale della Costa d'Avorio, ma soprattutto di Babacar Coppa Barry. Grande Coppa Barry. Vedi, però, oggi io paragonato a Ancono, paragonato a Grobelan. Ieri ci ho parlato con Ancono, e Ancono grandissimo, perché Ancono è un grande personaggio, e si è lamentato, Ancono ha criticato Barry per le scene che ha fatto durante i rigori, per chi non l'ha visto. Sveniva. Si è buttato per terra, sveniva, c'aveva i crampi, pregava, insomma ne ha fatte di tutti i colori. Allora Ancona mi dice: io non l'avrei mai fatto, però dice: lo capisco che il ragazzo ha sofferto tanto. E in effetti è così, perché poi c'è questa intervista televisiva bellissima in cui lui alla funaria, a un certo punto, si gira, guarda in macchina e comincia a piangere. È un uomo di teatro grandissimo. Però è vero che è stato sempre considerato uno sfigato, cioè si diceva: la cosa d'Avorio, una generazione di fenomeni, non vincono perché non c'è un portiere. Sì. E il portiere era sempre lui, poveretto. E però l'Africa è questa, mi piace per questo, perché alla fine hanno un portiere, lo trovano buono, si fa male e la finale la deve giocare lui, quindi devono vincere con lui. è una storia di grande liberazione, ai rigori, è il vero eroe, insomma, sì. È divertente. Poi il calcio fa abbastanza schifo. C'è un portiere però... più clownesco di questo? No, ma poi anche un po' scorretto, cioè, poveretto, il portiere con i grandi, solo in Africa ce l'abbiamo il portiere con i grandi. Esatto, che poi va a segnare anche il rigore, no? Esatto, quindi tanto Grampi non c'aveva. Tanti Grampi non c'aveva. No, ho pensato a mia madre, quando dice, quando si gira verso la telecamera, dice, ho pensato a mia madre e comincia a singhiozzare. Però sono cose divertenti. Mi domando se è più seria la Coppa d'Africa o il torneo notturno dei Barra. Ma figurati, entrambi molto seri. Io sono un grande amatore del calcio amateur. Però no, la Coppa d'Africa è molto divertente. È Renard, questo, hai visto che personaggio? Adesso è diventato anche un sex symbol. Grande allenatore, sì. È uno serio, uno bravo. Che sente l'Africa sulla pelle. Lui, l'ho chiamato la sera prima, ero al telefono con lui, abbiamo fatto l'intervista. Lui mi ha detto che giocava a Barri e dice che era il momento. Era arrivato il momento che doveva vincere Barri e così è stato. Perché era scritto nella sabbia degli aruspici, tra le ossa degli aruspici, no? Sì, esatto, perché sai quando lui vince la Coppa del 2012 con lo Zambia, no? Contro la Costa d'Avorio ai rigori. Costa d'Avorio strafavorita, lo Zambia dentro da banda di mezzi giocatori, vincono con rigore numero 18 come i calciatori morti nella stessa città a Libreville nel 92. In Africa queste cose contano. Queste cose contano anche un po' da noi, non così tanto, ma contano anche un po' da noi. In Africa valgono. Dimmi un'ultima cosa, un'ultima cosa un po' più seria. Stiamo facendo della letteratura e della storia, esatto, no, sul calcio, esatto, africano. Ma secondo te in che condizioni torneranno Gervinho e Doumbia? Perché le altre volte è capitato che reduci dalla Coppa Africa ci abbiano messo un bel po' a tornare. Intanto visto sono giù in ad Abidjan, folle oceaniche ricevute dal presidente, così, quindi intanto vediamo quando tornano. Prima cosa perché così, non siamo ai tempi mitici di Taribo West, che magari ci mettevano 10 giorni a tornare perché non c'era il volo, però sì. Quanti tornano, ne hanno bevuti? Insomma, tornano bene dal punto di vista, diciamo, morale, emotivo, perché questa è una grande liberazione. Hai visto il povero Gervinho che guardava i rigori, non guardava di spalle. Si è seduto su una sedia di spalle. Sì, ho visto. Fatto togliere perché lui il rigore non lo voleva tirare. No, per cui molto bene da quel punto di vista. Renard è uno che allena bene, quindi la condizione fisica dovrebbe esserci. E poi dipende un po' da quanta festa hanno fatto. Sì. Questo lì non si entra nel campo del privato, e quindi saranno feste loro. Feste sono un po' meglio di quelle di Ronaldo. Sì, Ronaldo sempre Cristiano, no? Claro. L'altro era horse category, come dicono delle montagne del Tour de France. La cosa più bella, lo sai che quando lui fa il matrimonio a Parigi, che poi non era neanche un matrimonio perché non si poteva sposare perché già c'era 4 mogli, però sì, l'ultimo, una festa così, diciamo, di mezzo fidanzamento così, lui si fa male perché non mi ricordo qual era la modella, prende, ballando col tacco 12 gli finisce su un piede e lui sta fermo un mese e mezzo. Grande professionista, professionista della... in tutti i campi, non è la parola. Grazie Filippo. Ciao cari. Bellissimo. Filippo, ciao. Maria Ricci, signori. 800240024, signori. Vittorio, provincia di Treviso, buongiorno. Sì, salve. Dica. Buona occasione. Volevo chiederle una cosa. Premetto che io sono un tifoso del Milan e non ho niente contro la Juve, anzi sono anche molti amici juventini, e penso che dopo Calciopoli le cose comunque siano cambiate, perciò le cose che dovevano essere pagate sono state pagate. Io non penso che dietro ci sia un calcio sporco ancora. Dico semplicemente una cosa, ed è la stessa domanda che ho posto anche dei miei conoscenti di juventini. Io, a parte, e non voglio far polemica, faccio solo una domanda, a parte il famoso rigore di Robinho nel 2012, stiamo parlando 2012, e ammetto che il mio Milan in questo momento non è neanche da mettere con la Juve, perché stiamo parlando di potenziali completamente differenti. Dico solo che ogni volta che c'è un Milan-Juve o un Juve-Milan c'è sempre qualcosa che non va, c'è sempre qualche particolarità, cambia la partita, qualche fallo non visto, qualche giallo non visto, e dico che qualcosa di strano c'è, ma non perché penso che dietro ci sia un calcio sporco, dico che, boh, non lo so, che sarà sfortuna, no, cioè, provo a dire la domanda a lei. No, certo? Ma io l'unica cosa, l'ho detto anche ieri, l'unica cosa che non posso capire, io posso capire il concetto di sudditanza psicologica, ok? Posso capirlo e penso anche che esista. Però non nei confronti del Milan, cioè non nei confronti di un club come il Milan. Dunque sono partite estremamente tese, nervose, in cui tutto è monitorato, tutto è visto mille volte, in cui che sono come il Festival di Sanremo, non esisterebbero senza polemiche. Dunque così è, però mi rifiuto di pensare che sia un gioco di potere o che ci sia sudditanza, che ci sia sudditanza psicologica dell'arbitro nei confronti della Juventus e verso una superpotenza calcistica italiana come il Milan, semplicemente questo. Poi sono d'accordo, ogni Milan-Juventus porta con sé molte storie. Alberto da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Genta, io volevo intervenire sempre sull'annosa questione delle righe del geometra Galliani. Intanto mi permetta di fare le condoglianze a voi e alla vostra redazione per il vostro amico collega che ho sentito. Va bene, ieri. Tadori, la ringrazio. Prego. Volevo intervenire per Galliani, no? Ma Galliani, io non mi meraviglio per niente di quello che ha detto Galliani, perché cioè, Galliani ha un maestro davanti, ha un luminare che è Berlusconi, un luminare della comunicazione, e voglio dire... Sì? No, no. Sì, no. No, sto finendo, scusi. Sì, sì, voglio dire, no. ha davanti appunto un luminare della comunicazione, per cui... Si è detto quello, ha usato l'arma che usa sempre Berlusconi, cioè ha sempre usato Berlusconi, che si chiama arma di distrazione di massa, cioè finita la partita, la Juve ha surclassato praticamente il Milan, di cosa abbiamo parlato noi? Abbiamo parlato delle righe. Beh, insomma, abbiamo anche discretamente notato come tutto fosse pretestuoso, ci siamo anche domandati come posso un uomo di televisione ma dei livelli cosmici come Galliani, l'uomo che è la televisione, che ha fatto della televisione un impero insieme a Berlusconi, come possa fare un'uscita di questo tipo sulle righe del campo, quando insomma era evidente che così fosse. Abbiamo anche provato a dire che va bene, la linea e la storia delle geometrie, d'accordo, però se vogliamo metterla sul calcistico, il Milan ha preso praticamente un gol su rimessa laterale con un contropiede da centrocampo a Torino contro la Juventus, un Milan in queste condizioni. Abbiamo detto molte cose, quindi non abbiamo parlato esclusivamente di quello. Ciò che ci domandiamo un po' tutti è se l'uscita di Galliani avesse degli altri scopi che non fossero quelli dell'arma di distrazione di massa, perché lì c'è poco da distrarre, insomma. La Juventus ha battuto largamente il Milan, ha dominato il Milan soprattutto nel secondo tempo, dunque mi sembra ci sia poco da dire dal punto di vista tecnico. E aggiungiamo che se Inzaghi fa i complimenti alla sua squadra per aver perso in maniera netta 3-1, c'è qualcosa che non va. Carlo, buongiorno. Sì, buongiorno. Siamo in chiusura. Io telefonavo, grazie della convocazione. Telefonavo in merito alle polemiche che sono sorte sui libri che ha scritto il nostro presidente federale Tavecchio. Sì. Ecco, ma come ci si può permettere che un presidente federale scriva un libro e lo faccia acquistare dalla federazione? Sì. Allora, sono davvero in chiusura, le dico questo, oggi Malagò, presidente del CONI, ha detto, nel confermare Montezemolo, presidente di Roma 2024 del comitato, ha detto non è stata una grande idea questa dal punto di vista mediatico, ma non è un'operazione a scopo di lucro. C'è poco tempo per parlarne, però se volete lo facciamo domani. 800240024 resta il vostro numero. Grazie a Giorgio De Luca, autore del nostro programma, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Bonamici in redazione. Ciao. Cuore Denari è una grandissima situazione che potrebbe essere molto molto positiva per me, per la mia famiglia, non ci sposteremo di molto, ma io in Italia non voglio, non me la sento di indossare altre trasmissioni.